Got a slick chick, see, a neat chick, the she's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick, hey, hey, hey, hey. A high heels on for the baby blues. Hey, hey, hey, hey. Man, oh man, what a sack. Hey, hey, hey, hey. Perfect lipstick for the baby blues time. Man, oh man, yeah. It was a night. Yeah. Yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah. Yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah. Yeah. She's my clickety click or stitch it. Yeah. Yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, oh man. She is mine, I said, I got a stick chick, she's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick, yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah know she's a stick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. A stick yeah, yeah chick, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chick chick, yeah, yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click click, yeah, yeah, yeah, yeah. I got a crazy little chick, yeah, yeah. I don't yeah, yeah you know she's slick. Eccomi qua, Slick Chick, Radio Wombat, sono le 22:35 se non sbaglio, sì più o meno, l'orologio della mia Bat Caverna, no, Wombat Caverna, oggi sono un po' così in stile supereroi, e dice che appunto è mercoledì 16 dicembre 2020, 22:35, 2020 ancora per poco, dai dai dai che ce la facciamo a farlo finire quest'anno di merda. E Radio Wombat Slick Chick, dicevamo, e come quasi tutti i mercoledì, perché in realtà ogni tanto mi prendo delle pause o ho delle sfighe generalmente di tipo tecnico e catastrofi varie, ma insomma quasi tutti i mercoledì intorno a quest'ora con Slick Chick approfittiamo di un argomento un po' vario, variegato, per parlare di tante cose, ma soprattutto di per ascoltare un botto, un sacco di musica, e questa è l'occasione di oggi, che è tutto un po' nuovo oggi, perché ho un computer nuovo, programmi nuovi, tutto nuovo, infatti farò un po' di pasticci, perdonatemi, vi chiedo subito perdono in anticipo per tutti i pasticci che farò, perché già lo so che li farò. Però la puntata di oggi, appunto, è una puntata, come dire, particolare, perché è una puntata dedicata a una città. Altre volte abbiamo fatto delle puntate su Slick Chick dedicate a delle singole città, abbiamo ad esempio esplorato Torino, abbiamo esplorato Firenze, e così vi preannuncio che non saranno ovviamente le uniche città italiane e non italiane che andremo ad esplorare, ce ne saranno tante altre, ma oggi è la volta di Parigi. E siccome Parigi è una città, come dire, abbastanza grandina e con una storia anch'essa abbastanza estesa, ecco, io penso che sinceramente non mi basterebbero 75 puntate, cioè dovrei fare probabilmente, non lo so, una serie di 27.000 puntate per raccontare a modino Parigi. Siccome non è possibile, il tempo a mia disposizione è un'oretta, poco più di un'oretta, insomma, e lo sto già sprecando un sacco parlando con voi così del più e del meno, ecco, penso che insomma dovrete un po' accontentarvi. Oggettivamente quella di stasera sarà un'infarinatura, sarà un proprio così, una spruzzata di aria parigina, Servirà magari appunto per incuriosirvi e ovviamente per farvi venire della malinconia, perché Parigi in fondo ruota tutta su questo. E partiamo subito però, quindi la scaletta è abbastanza lunga e cercherò di appunto di esplorare Parigi, la esploreremo insieme attraverso alcuni suoi personaggi un po' topici, attraverso dei luoghi sia chiusi, cioè sia al chiuso. Quindi sia dei locali, dei bistrò, insomma, lo vedremo, ci sono dei posti, dei luoghi abbastanza simbolici di Parigi, ma anche delle strade, delle piazze, e lo vedremo non soltanto, anche delle vigne addirittura. E poi, insomma, andremo a esplorare Parigi, nella sua musica, beh. Anche qui, ovviamente, non vi posso dare conto in una piccola puntata come questa di tutta la musica, che ruota intorno a Parigi, ma forse qualcosina riusciamo a toccarlo. Quindi iniziamo da uno dei luoghi più clamorosi e più topici di Parigi, ovvero il Moulin Rouge. Parto da qua e forse avrei potuto partire dalle cose, boh, non lo so, forse un po' più ovvie, non lo so, la Torre Eiffel, il Louvre, sono veramente tantissimi i luoghi simbolo di questa città. Ma invece io parto dal Moulin Rouge, perché il Moulin Rouge in realtà ha una storia piuttosto interessante e effettivamente per almeno alcuni anni, che però sono stati tanti, direi, è stato un po' il centro anche del mondo, o perlomeno di un certo tipo di mondo. A Pigalle, nel 18° arrondissement, quindi il 18° quartiere, chiamiamoli così, anche se sono dei quartieri immensi, insomma, distretti, forse sarebbe un termine più appropriato. 18° arrondissement, a Pigalle, sotto Montmartre proprio, e di Montmartre parleremo ampiamente all'interno di questa puntata. Il Moulin Rouge viene inaugurato il 6 ottobre del 1891 da Charles Zidle e Joseph Olé. Montmartre si sa a fine 800 era un turbinio di fermenti, arte, culture, libertà varie, feste, di tutto. E adesso Montmartre, per chi c'è stato, è parte integrata dei quartieri della città proprio, ma al tempo era ancora campagna, era un paese, proprio un paese, al limitare della città. E lì, da un vecchio mulino a vento, si era ricavato il Moulin de la Galette, in realtà da due mulini, se dobbiamo dirla tutta. Era un ristorante danzante, lo chiamavano così, che aveva avuto un discreto successo, appunto a fine 800. In omaggio a quel mulino e anche a quelle atmosfere, Zidle e Olé decidono di provare a trasferire un pezzo di quella bolla, in qualche modo, di Montmartre anche giù a Pigalle e costruiscono un locale che ha, lo ricorderete, insomma, appunto si parla di simboli e quindi probabilmente il simbolo del Moulin Rouge vi è chiaro, aveva appunto questo finto, fintissimo mulino incastrato, incastonato sulla facciata. Mulino che è rosso, sgargiante, stravagante e nel cuore della Belle Époque è questo Moulin Rouge, quello che rappresenta, è esattamente quello che serve per abbandonare le tristezze, la disperazione della guerra franco-prussiana che era finita da poco, dove insomma la Francia ne aveva sofferto un bel po'. Sebbene tutti noi associamo immediatamente il Moulin Rouge al Cancan, e peraltro ha ragione perché oggettivamente, beh, non si può dire proprio che è stato inventato lì, però diciamo che ovviamente viene associato a quelle mura. Ecco, nonostante associamo al Cancan, gli spettacoli che si avvicendavano ogni sera al Moulin Rouge erano tantissimi. Dal vaudeville alle dive, ballerine, cantanti, c'erano splendide scenografie e coreografie fastose, e E ogni sera era una bolgia di colori, lustrini, meraviglie, insomma, tutto quello che adesso non possiamo fare, ma vabbè, questo non ci mettiamo a pensarci perché poi ci viene da piangere. Il desiderio di liberazione in qualche modo e decompressione in quella Parigi che appunto che aveva vissuto un periodo così cupo e che invece si stava, come dire, camminando verso quella che era la Belle Époque, quindi verso, beh, e poi dopo tutt'altro, ma insomma, almeno per quel momento si poteva pensare che ci si era lasciati alle spalle tutta la tristezza. Ecco. Tutto questo desiderio di liberazione e decompressione era tale che in realtà i numerosissimi pubblici scandali, stigmi, vi potete immaginare, insomma, non servirono ad altro che alimentare il mito di questo luogo di perdizione, talmente di perdizione che tutti ci volevano andare poi di fatto. E sull'onda di questo irrefrenabile successo aprirono un'altra serie di locali, come le Folies Bergère, le Chat Noir, le Lapin Agile, che fra l'altro poi ne parleremo, prima si chiamava le Cabaret des Assassins. È un'enorme parte della cultura parigina nasce e vive qui. Non è un caso che ho scelto di partire da qui perché molte cose nascono qui. Toulouse-Lautrec, Manet, Renoir, Van Gogh, gli altri impressionisti. E ora veniamo al primo brano di questa scaletta. In particolare, qualche anno dopo, a dire il vero, all'inizio del Novecento, al Moulin Rouge esplode un'altra diva, ovvero Miss Tinguette, all'anagrafe, diciamo, Jeanne Bourgeoise, cominciò a lavorare come venditrice di fiori. Cioè, Madonna, sembra veramente un film di Charlie Chaplin. Però sì, venditrice di fiori in un ristorante nella sua casa natale e cantava ballate popolari mentre vendeva i suoi fiori. Madonna, quanto è parigino tutto ciò. Le sue cattive abitudini, perché di fatto ovviamente una diva non è tale se non ha delle pessime abitudini, almeno agli occhi della pubblica morale. Le sue cattive abitudini affascinavano di fatto Parigi e Miss Tinguette divenne una delle più popolari artiste francesi del suo tempo e la più importante donna del mondo dello spettacolo, almeno francese, ma poi in realtà di gran parte dell'Europa, quantomeno. Nel 1919, attenzione, le sue gambe vennero assicurate per l'enorme cifra di 500.000 franchi. Scusate. Sì, è poco. Quindi questa stella del Moulin Rouge è il primo ascolto di questa scaletta di Slick Chick dedicata appunto a Parigi ed è per l'appunto Miss Tinguette. E beh, ci sono veramente tantissimi brani in realtà che sarebbero stati simbolici di Parigi, della Francia e anche del Moulin Rouge, ma ho scelto il didascalico Ça, c'est Paris. Retour. Ora io mi rendo conto di spengere un po' gli entusiasmi, però effettivamente Missing Hat c'ha quest'aura di appunto da diva, sempre circondata da queste piume, lustrini, eh. Ma questa vocetta io me la immagino sempre un po' sfavata dopo la 700esima replica al Moulin Rouge, quella che fa "Ça, c'est Paris, ça, c'est Paris", perché cioè, c'ha un po' sta, no? Sta verve, un po' tipo "Madonna che palle, ancora questa... se pari, non ne posso più". Vabbè, forse pare solo a me. Bene, rimaniamo oltre che a Parigi, ovviamente rimaniamo anche a Montmartre, con Itatraid. Beh, d'altra parte ho pensato: ma perché essere didascalici e incentrare tutta la scaletta su brani che parlano di Parigi? Sarebbe una noia mortale. Ascoltiamo anche un po' di gruppi parigini, banalmente, perché in fondo anche questo è un raccontare una città. Quindi arriviamo ai Tetraïd, Saint Vincent, la canzone che peraltro non è assolutamente dedicata a Parigi, boh, almeno non credo, il testo è abbastanza così oscuro, non saprei dire, ma non penso proprio. Però potrei lo stesso usarla per raccontare di Rue Saint-Vincent, perché così, boh, per saltabeccare da una parte all'altra, tanto d'altra parte la trasmissione è mia e faccio quello che mi pare. Rue de Saint-Vincent è una delle tante strade assurde di Parigi, quando, non so se appunto se ci siete state o stati, l'avrete notato, a un certo punto giri l'angolo e ti trovi in un paesaggio completamente diverso da quello in cui stavi camminando, cioè, ma proprio che dici, oddio, ma che è successo? Cioè, ho avuto un attimo un, non lo so, un salto spazio-temporale. Ecco, esatto. E Rue de Saint-Vincent è così, effettivamente. E quindi in cima a Montmartre, perché questo è il luogo, eccoci d'improvviso in campagna, in mezzo alle vigne e ai Jardin Sauvage, che è il giardino selvaggio in italiano, che si è sviluppato spontaneamente a partire dagli anni 80. Effettivamente, considerato che sotto, appena sotto, c'è appunto Pigalle, c'è Barbès, che sono un delirio fondamentalmente, dei quartieri assolutamente densi, pieni, intricati, pieni di gente urlante di tutti i tipi, mercati, sali e d'improvviso giri l'angolo appunto e ti ritrovi in campagna di fondo. E qui peraltro c'è Le Lapin Agile, quello che citavamo anche prima, il cabaret dove passavano le giornate Picasso e Modigliani, ma soprattutto c'è la vigna di Montmartre. E di questo volevo parlare perché, appunto, non potendo poi davvero essere esaustivi in una puntata di Slick Chick su Parigi, posso però almeno prendere dei piccoli esempi, dei piccoli simboli. E uno di questi, appunto, è la vigna di Montmartre. L'esistenza di varie, in realtà, vigne a Montmartre viene fatta risalire addirittura al 944. Ma in realtà poi da lì in poi, insomma, ci sono diverse testimonianze che in quella zona c'erano molte coltivazioni di vigne, piantate in seguito anche nel XII secolo dalle monache dell'abbazia di Montmartre. Quando l'abbazia cade in rovina, le monache vendono le vigne e la produzione del vino diventa una delle attività più diffuse. Tra l'altro, dobbiamo dircelo, il vino di Montmartre, chiamato la Goutte d'Or, tra le altre cose, pare non essere assolutamente buono, cioè va a essere un po' una ciofeca, però è tutto molto romantico e quindi, insomma, che ci frega se poi non era buono. E, insomma, praticamente, essendo però molto diffusa l'attività e la coltivazione della vite, ovviamente, questo favorisce l'apertura di numerose taverne e cabaret, e poi, insomma, la storia la sapete. Ma le sorti delle vigne sono alterne e vengono di volta in volta abbandonate, poi ripiantate, poi ritrovate, e negli anni 20 rischiano di venire travolte quasi completamente dallo sviluppo immobiliare e da, peraltro, quella famigerata rivoluzione urbanistica di Haussmann, di cui parleremo anche durante il corso di questa puntata. Gli abitanti di Montmartre, noti peraltro per la loro combattività, e anche qua dovremmo aprire un capitolo di circa 7 ore sulla Comune di Parigi, ma ovviamente non c'è possibile, però insomma, chi vuole intendere intenda, gli abitanti appunto resistono come possono e nel 1929, per impedire l'ennesimo progetto immobiliare, in particolare tra Rue du Sol e Rue Saint-Vincent, per l'appunto, gli abitanti si mobilitano e appunto iniziano a costruire un giardino. Piantano prima un pergolato, poi un'altalena, una finta targa del Comune di Parigi, rinominando la piazza in Square de la Liberté. Nel 1933 gli abitanti di Montmartre riescono a ottenere dal comune l'inaugurazione delle Clos Montmartre, che poi è la vigna attuale, quella che ancora esiste in questo angolo di Montmartre, nata proprio per impedire l'ulteriore urbanizzazione del quartiere. In questo angolino doveva nascere l'ennesimo edificio immobiliare, doveva essere un ennesimo enorme palazzo abitativo. Beh, appunto lo sviluppo immobiliare di Parigi è, insomma, penso a livello urbanistico uno dei più studiati e uno dei più selvaggi, peraltro, e più devastanti. E selvaggi no, non lo direi, perché sembra quasi spontaneo, invece tutt'altro che spontaneo, è molto pianificato in realtà, ma ovviamente dalle ripercussioni terribili. Ecco, all'ennesimo, questo di fatto era uno di questi ennesimi progetti che dovevano devastare le ultime vigne rimaste a Montmartre, e appunto sono stati proprio gli abitanti di questo piccolo quartiere di Parigi a salvarle in qualche modo e a farne una sorta di muro, in modo che l'urbanizzazione da lì in poi non potesse più procedere. E quindi, con questo anche augurio di prendere spunto da questo, ci ascoltiamo quindi, dicevamo, dei Tetraid Saint-Vincent. Mots qui s'étalent dans toutes les chansons. Faut se le dire, c'est un fantôme, n'y touche pas. Brûlant d'arôme, regarde tout bas l'air innocent de Saint-Vincent. On a maquillé nos squelettes érodés, c'est bien plus pratique. Mais l'un sans l'autre, le cœur n'ose pas. Mais l'un dans l'autre, la vie va s'en va, effleurant le vent Saint-Vincent. On n'est pas nihiliste, c'est la rue qui dit tout ça. Le prochain sur la liste, c'est toi. Un petit coup de couteau, trois petites balles dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Une fois passé du côté de la visage, plus rien à faire. Mais quand tu gigotes, je chavire doucement. Tu me ravigotes tant et les yeux sanglants. Si t'es le talent, moi je serai l'envie, la froide lame. Et si nos deux vies s'éclairent un moment dans une harmonie, serrerai les dents. Un petit coup de couteau, trois petites balles dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Il cousait sa vie, si le temps vous en dit. Rue des Brouettes. Mais les artistes, Saint-Vincent, ça n'existe pas. mais la chanson va. Faut parler tout bas quand t'es bien élevé. Moi je parlais tout bas, là je vais arrêter. Le silence des fois, faudrait l'exécuter. Vu l'ambiance dérapage à tous les étages, je balancerai bien mes petits ressentiments. Mais pareil, je suis une fille et une fille n'en a pas de ça. Moi j'ai une drôle de rage et je sais plus quoi en faire. Dès que je la jette par terre, on me dit que je saccage. Je voulais la refiler, mais ici c'est pas la peine. Tout le monde a la même et en double exemplaire. Sous la nuit, j'ai dévisagé la peur, on survit. La mémoire, des fois, c'est un sport de combat. J'ai une rage de tête qui me fait assez mal. Armé en dedans, je deviens illégal. Mais pareil, je suis une fille, et une fille, elle n'en a pas. Exécution sommaire dans le silence le plus exemplaire. Dans les caves, les familles, et même en pleine lumière. Le silence c'est la guerre, le silence c'est. Et il paraît, je suis une fille et une fille n'en a pas de ça. Moi j'ai une drôle de rage et je sais plus quoi en faire. Dès que la jette par terre, on me dit que je saccage. Moi je voulais la refiler, mais ici c'est pas la peine. Tout le monde a la même. Je crois que je vais la garder parce qu'elle pourrait me servir. Et si on veut me servir, drôle de rage, rage de tête, tête ailleurs. Alors de rien, rien à perdre, on commence, on s'en gère. De rien, rien à perdre, on commence, drôle de rage, rage de tête. Che bello sentire la voce Lola Lafon e l'Eva Drôle de Rage, una scrittrice, cantante parigina, ma con origini bulgare e rumene, insomma dell'est Europa, molto mescolate, molto evidenti anche in realtà, se ci fate caso. E anche questa era una voce parigina a suo modo, che mi faceva piacere farvi ascoltare. Secondo me appunto, almeno io nei miei personali ricordi, quando penso a Parigi, ho anche questa voce in testa e quindi non posso esimermi da mettercela dentro questa scaletta. Radio Wombat, ovviamente, state ascoltando Slick Chick. Vi ricordo i contatti della radio, ovvero la frequenza 1359 in onde mediocri, ma attualmente probabilmente non la state riuscendo ad ascoltare, non siete impazziti e impazzite, non avete improvvisamente un grosso fruscio nelle orecchie, no, ci sono dei problemini tecnici, ma volti a dei futuri miglioramenti. Quindi non disperate, adesso magari, beh, no, magari sicuramente non riuscirete ad ascoltarci in onde medie, ma potete comunque intanto aspettare. Aspettando che questi problemi siano superati, potete ascoltarci in streaming dal sito radiowombat.net, il nuovo sito, ovviamente, che tra un po' smette di essere nuovo, ve lo dico, quindi insomma dovete abituarvi. E potete anche scrivere comunque a Radio Wombat con la casella di posta wombat@insiberia.net, e poi sempre dal sito radiowombat.net potete accedere, guardando o sbirciando nella pagina contatti, agli altri due metodi per entrare in contatto con noi, che sono fondamentalmente il nostro pad per chiacchierare con noi durante le dirette, oppure anche la messaggeria del Wombat, dove potete lasciarci un messaggio nella bottiglia, un messaggio vocale, e appunto dirci qualcosa anche con la vostra vocetta. Ma torniamo a Parigi e alla nostra scaletta di oggi, perché abbiamo un bel po' di musica ancora da ascoltare e tanti episodi e racconti da fare. E torniamo a un altro luogo, un altro teatro, il Théâtre des Jussieu, un teatro situato al 41 di Boulevard du Temple, nel terzo arrondissement. E il Boulevard du Temple è un luogo di per sé che varrebbe la pena appunto di essere raccontato, perché era il Boulevard du Crime, il viale del crimine, la strada dove si affacciavano moltissimi teatri drammatici, ma teatro a sua volta, oddio che brutto gioco di parole, a sua volta di scene di malfamatissima malavita malavitosissima, insomma uno di quei luoghi bersaglio della rivoluzione urbanistica di Haussmann, sventrata, devastata, cambiata di senso. E per farlo, come sappiamo bene, si ha sempre bisogno di utilizzare la parola magica degrado, in voga da centinaia di anni, non ci siamo inventati niente, che sia chiaro. Il teatro di Jussieu è l'unico teatro sopravvissuto a questo scempio. Conosce le varie fortune alterne tipiche di molti teatri, diventa vaudeville prima e poi cinema all'inizio della guerra, per poi venire chiuso durante l'occupazione tedesca. Rinasce nel 1964, ma senza grande fortuna, e sembrava destinato al definitivo declino, finché non viene comprato e rilanciato nel 76. Mi sembra un industriale della moda, se non vado errata. All'inizio, negli anni 80, però, attenzione, cambia tutto. In quel periodo, infatti, Joël Jacques Julien, musicista jazz, fonda insieme ad altri Radio Libertaire sugli 89,4 MHz in onde medie, una sorellina. La radio della Fédération Anarchiste è questa Radio Libertaire, radio, anzi si dovrebbe dire. E, nel frattempo, invece, Hervé Trinquier, madonna com'è difficile questo nome da pronunciare, spero di averlo detto decentemente, un musicista, questa volta non jazz, ma di impronta classica. E nel frattempo lui invece apre una bellissima libreria anarchica, la Publicot in rue Amelot, libreria che esiste ancora, se capitate da quelle parti vi consiglio assolutamente di visitare, perché ne vale tantissimo la pena, tutta gialla, bellissima. Insieme questi due loschi figuri organizzano molti eventi benefit per Radio Libertaire, e a un certo punto decidono che quello che gli manca è proprio un teatro. Ora, questa può sembrarci buffa come associazione, ma in realtà il mondo dell'anarchismo, soprattutto quello francese, e il mondo dello spettacolo, del teatro e della musica erano molto legati, e comunque tutto l'ambiente bohemien a cui spesso si fa riferimento così, in modo quasi romantico, ma insomma ha gettato le basi poi del socialismo e dell'anarchismo francese e parigino in particolare, quindi non ci deve stupire, perché i due mondi molto spesso erano e sono molto legati. Quindi cosa succede? Nell'85 questi due prendono in gestione il Jazzé e lo rinominano Théâtre Libertaire de Paris, e l'inaugurazione del appunto del Théâtre Libertaire de Paris, o TLP de Jazzé, viene chiamato anche in questo modo, avviene il 1 febbraio del 1986 con una delle più grandi figure contestatarie, ribelli artisti che della canzone perlomeno francese, ovvero Léo Ferré. E ci sono diverse registrazioni di Léo Ferré live al Théâtre Libertaire, ma se ve la devo dire tutta, io ho scelto un brano che semplicemente mi piaceva e che non credo sia stato registrato live, o almeno, cioè perlomeno non questa versione che ci stiamo per ascoltare, ma anche perché era di parecchi anni prima, ma non ho dubbi, anche se non l'ho mai visto con i miei occhi, che Léo Ferré l'avrà sicuramente cantata questa canzone strafamosa anche al Teatro Libertaire, quindi insomma la filologia è salva, siamo tutti contenti, e quindi ci possiamo ascoltare appunto Sette Extra di Léo Ferré. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Cioè, questo brano deve essere una specie di tipo prova della cadrega per le Ritalien, che sono il modo con cui i francesi chiamavano e chiamano gli italiani, in modo con un certo grado di snobismo e disprezzo, perché non sono in grado di fare la R moscia, e quindi questa set extra difficilissima da dire. Sicuramente, secondo me, era in realtà un test perfido per così umiliarci. E cambiamo completamente genere, perché ok, bla bla bla, la Parigi di un certo così, con una certa atmosfera, accendini, baguette, abat-jour, marron glacé, eccetera eccetera, e no, e adesso basta, cambiamo completamente. Beh, basta no, perché poi tanto ci ritorniamo, però per adesso almeno basta, perché invece adesso vi sparate i Supreme Nick Tamer con Paris sous les bombes, e che già insomma dal titolo si capisce, Parigi sotto le bombe, già insomma un po' più peperino, e è un testo che parla dell'epoca d'oro dell'hip hop francese. E non si può parlare di Parigi senza parlare delle sue banlieue e delle sottoculture che l'hanno animata. Io, se devo dire, manco da Parigi da troppi anni per poter dire se la animano ancora, ma so che sicuramente in passato ne sono stati cuore pulsante, sangue e nervi. Penso all'hip hop ovviamente, ma anche al parkour, che è nato qui, come era un po' un modo come fare di una fuga un bellissimo punto di forza, e questo l'ha insegnato il parkour. Dunque, quindi dobbiamo parlare delle banlieue a tutti i costi. Se foste francofoni o così almeno francofili, vi consiglio un bellissimissimo libro, purtroppo mai tradotto in italiano, La France a peur, la Francia ha paura, una histoire sociale de l'insicurité, quindi una storia sociale dell'insicurezza, di Laurent Bonnelli, edizioni La Découverte, un libro uscito nel 2008, appunto purtroppo mai tradotto in italiano, che racconta veramente bene la genesi delle banlieue e la genesi del mito dell'insicurezza, del degrado, della paura. Insomma, andrebbe letto anche in Italia, perché queste dinamiche ovviamente non ci suonano per niente strane. La Francia esce dalla Seconda Guerra Mondiale con un territorio sconvolto e devastato, come quelli di gran parte dell'Europa, del resto, e non solo Europa. I francesi hanno fame, non hanno casa, ai margini delle città, in quelle che sono ancora le zone rurali, la gente si ammassa in vere e proprie favelas, chiamiamole così, con case di fortuna e in condizioni estremamente precarie. Con la riconversione post-bellica dell'economia, le campagne iniziano a svuotarsi, i contadini tentano fortuna in città cercando lavoro nelle nuove fabbriche, insomma non tanto diverso dalla nostra storia. Sono gli anni del fordismo, in Francia si decide di dare il via a una serie di manovre che nell'arco di qualche decennio segnerà la ripresa economica del paese e che traccerà il nuovo volto sociale, politico, economico della Francia contemporanea. Per ovviare all'enorme domanda di alloggi, che oggettivamente al tempo effettivamente c'era, viene deciso un risoluto piano di edificazione popolare che nel tempo di una generazione porta alla costruzione di circa 6 milioni di nuove case. Stiamo parlando di Parigi, non di tutta la Francia. Le vecchie case, già semidistrutte dalla guerra, vengono sistematicamente demolite e ai bordi delle città vengono creati ex novo interi quartieri residenziali. Nascono così le banlieue. L'avvento del cemento rende più rapida la realizzazione di questi quartieri, ma determina anche evidentemente quello che sarà poi l'aspetto esteriormente più evidente. Decine di torri e barre, vengono chiamate così, blocchi di cemento tutti uguali che si guardano l'un l'altro. Questo è, come dire, proprio il dato distintivo per cui ci ricordiamo le banlieue. Anche adesso, ovviamente, nonostante poi sono state demolite negli anni, ma anche adesso le banlieue sono esattamente questo. L'urgenza e i pochi soldi a disposizione non lasciano molti margini, si deve costruire tanto, in fretta, le case devono contenere il maggior numero possibile di persone. Questo era un po' il diktat del socialismo alla francese del tempo. Si deve dare atto alle istituzioni francesi che, di fronte a una situazione economicamente disastrosa, l'emergenza abitativa viene di fatto colmata. Anche le persone più povere ottengono una casa e la loro quotidianità migliora in maniera sostanziale, almeno quella economica. La fabbrica diventa la principale fonte di occupazione, quindi fenomeni come la migrazione interna e lo svuotamento delle campagne vengono riassorbiti senza troppe cicatrici, e almeno evidenti, e in un'economia fordista l'operaio deve produrre e consumare ciò che produce, come sappiamo bene. Aggiungiamoci uno stato storicamente paternalista e si capirà come mai intere masse di persone, un anno prima ai limiti della miseria, si ritrovino adesso a vivere in case dotate di tutte le comodità, almeno quelle conosciute al momento, e con una condizione economica oggettivamente molto migliorata. Questo è quello che viene chiamato benessere, ma sappiamo bene il perché, in qualche modo. Le banlieue in questo momento sono composte da un mix, in quel momento sono composte da un mix di classi e persone estremamente eterogeneo. La guerra aveva livellato la crisi economica e anche il bisogno di casa, e si ritrovano a vivere insieme impiegati, operai specializzati, ex contadini e i primi migranti provenienti dalle colonie francesi, parecchi. Ma si tratta chiaramente di una convivenza forzata, dettata dalla necessità che i più ricchi vedono come un passaggio temporaneo, in qualche modo, una specie di trampolino, un purgatorio per poi andare verso la fortuna, fondamentalmente. Non va così, in realtà. Con il superamento del fordismo, l'operaio diventa sempre più specializzato e inizia a venir meno questa seppur forzata coesione di classe nata in fabbrica. L'operaio specializzato e l'impiegato iniziano a potersi permettere sempre maggiori lussi e soprattutto iniziano a sognare di potersi arrampicare nella scala sociale che appunto finora li vedeva agli ultimi posti. Questa tensione li porta, per contrasto, a voler prendere sempre maggiori distanze dall'operaio semplice, dal contadino e tanto più dal migrante, perché sono il simbolo di chi non ce l'ha fatta, un po' in qualche modo quelli che li differenzia dall'ultimo scalino e che li mantiene più in alto. Quindi la classe operaia, come noto, va in pezzi, e con essa anche la vita collettiva dentro le banlieue. E intendiamoci, questa è una crisi profondissima, in primis dentro la sinistra francese. Inizia così un ricambio dentro le banlieue, se ne vanno gli impiegati e gli operai specializzati che ce l'hanno in qualche modo fatta, possono accedere a un tenore di vita più borghese, e al loro posto arrivano nuove generazioni di immigrati. Negli ultimi 10 anni, dal 1990, sì, dagli anni 90 più o meno, vengono imposte forme di lavoro diverse, precarie, atomizzanti, lo sappiamo, e quindi che succede? L'accesso alla proprietà, alla crescita economica di fatto risulta impossibile per tutta la classe medio-bassa, e i postumi dello sviluppo del dopoguerra sono finiti, il volto del mondo del lavoro è radicalmente cambiato, chi ce l'ha fatta bene e gli altri non ce la faranno più, questo diventa palese. E quindi cosa succede? Che i francesi Balizar, che ancora non ce l'hanno fatta a fare il salto, sanno in cuor loro che hanno perso l'occasione, che probabilmente non ci riusciranno mai. Sono persone che generalmente ricoprono posizioni di un relativo potere nelle banlieue, sono i portieri, gli amministratori di condominio, i presidenti di associazioni di quartiere, che nelle banlieue sono molto importanti, e che covano quindi un crescente disprezzo per i migranti e per le classi più basse, perché sono il simbolo della povertà a cui si sentono di rimanere condannati. Quest'ultimi invece dal canto loro non hanno mai avuto una coesione di classe, né peraltro di altro tipo, perché anche senza volersi addentrare nella antropologia postcoloniale è abbastanza evidente che provengono da esperienze, culture diverse. È un mito tutto nostro che chi proviene dalla stessa area geografica deve stare insieme, tutti nel grosso stesso insieme, volersi bene. E quindi è piuttosto surreale in realtà per loro pensarsi come una collettività unita. E quindi cosa succede? Di conseguenza che lo scontro quindi si sposta su un terreno quotidiano dove l'esasperazione e il conflitto si sfogano in piccole scaramucce condominiali, e una sorta di vandalismo dispettoso in reazione a una serpeggiante xenofobia. Quindi chi detiene un seppur minimo potere quotidiano si aggrappa con tutte le forze alle proprie regole, alla propria posizione gerarchica, e tutti gli altri fondamentalmente rosicano e cercano alla prima occasione di fargliela pagare e di buttargli addosso la propria rabbia. Questo sta dietro alle banlieue. In estrema sintesi, c'è un mondo chiaramente complessissimo, e se non si analizza con una prospettiva storica, antropologica, postcoloniale, non ci si potrà mai davvero rendere conto di cosa succede, per esempio, durante i riot nelle banlieue, o di cosa succede nella vita di tutti i giorni, o anche cosa sta dietro alla società francese di cui parliamo magari negli ultimi mesi, dopo gli episodi a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Nel frattempo le banlieue cambiano, ovviamente entra un terzo, volendo, soggetto che ha la comunità musulmana, che ha un ruolo ovviamente molto importante. Insomma, la trasformazione va avanti per certi versi, però questo è il mondo di cui parlano tra l'altro, tra gli altri, anche i Supreme Nictamer, che sono uno dei gruppi più antichi e più autorevoli, diciamo, all'interno della enorme galassia del rap francese. E questo parla appunto, parlano le varie sottoculture, le controculture, non per niente molto politicizzate, molto rabbiose, di Parigi e delle sue banlieue. Quindi, dopo tutto questo lungo preambolo, spero non troppo noioso, a questo punto ci siamo guadagnati proprio i Supreme Nictamer e Paris sous les bombes. Stop it. mes bancs, avec lesquels j'exerçais dans l'ombre. Quand nos nuits étaient longues et de plus en plus fécondes, ouais, on était stimulés par la pénombre. Prêt pour lâcher les bancs, oui, prêt pour la couleur en trompe. Certains étaient là pour exprimer un cri, d'autres comme moi, juste par appétit. Tout foncé, chaque soir, pareil, nous étions les prises en condition, c'était à prendre ou à laisser. Tel le gamin, à l'âge que j'avais, qui n'aurait pas envié l'étendue que couvrait nos airs de jeu à l'époque, quand il fallait qu'on se frotte aussi avec les gueufs. Ça, c'est notre histoire en bloc. Je crois pouvoir dire qu'on a œuvré pour le hip hop. Désolé si de nos jours y'en a encore que cela chante. C'est clair. Big up. Pour les funky COP, big up. Pour les 93, big up. Big up, big up aux autres marrons au top. Passe la bande. J'entends encore les signes, les murmures, le bruit des pierres sur les rails qui rythmaient l'allure. J'ai kiffé chacune de nos virées nocturnes. J'ai kiffé ces moments qui me nouaient les burnes. C'était nos films à nous. C'était aussi une façon pour nous d'esquiver la monotonie du quartier. Oh, l'odeur de la cité finit par te rendre fou. Alors on allait s'évader en bande. Fallait que l'on descende dans les hangars, reprendre de l'avance sur la Comatec ainsi que sur les autres crews, afin de faire le break. C'était Paris sous les bombes. C'était Paris, Paris sous les bombes. Che poi non so se avete fatto caso, io l'ho visto ora per la prima volta, ma è, cioè, il cantante dei Negresco Svert è identico a Shane McGowan, il cantante dei Pogues. Secondo me, cioè, sono fratelli, oppure il cantante dei Negresco Svert è un grande fan, imitatore Shane McGowan, ha pensato di questo però bisognerebbe spiegargli che non gli giova alla salute, probabilmente non è una buona scelta imitare, cioè prendere come modello anche estetico. Vabbè, comunque, in ogni caso, I Love Paris, avete sentito Amo Parigi, è ovviamente è una cover del Negresco Svert, perché in realtà è una canzone di Can Can, per l'appunto, il musical del 1953 di Cole Porter. E beh, cioè, ci voleva, perché era un modo per devastare gli amati cliché che piacciono tanto agli americani innamorati della romantica Parigi, quella appunto di cui parlavamo prima, con la baguette, il basco, ecco. E rimaniamo sui cliché e sugli americani, gli statunitensi, diciamolo bene, che guardano Parigi. Lo facciamo in realtà con un brano musicale bellissimo, ma questo è marginale. Il punto di partenza in realtà è Paris Blues, che è un film americano del 1961 ambientato a Parigi. Bello perché, insomma, l'anno, il 1961, alla fine di questa scaletta ci torneremo, non è che proprio a Parigi si stava benissimo, erano tutti intenti a, appunto, a innamorarsi, a guardare, non lo so, il tramonto dalla Torre Eiffel. C'erano un po' altri problemi nel 61 in Francia, però gli americani non se ne erano accorti. E quindi c'è questo film dove troviamo Sidney Poitier, in realtà, dai, poi c'era tutta, insomma, c'era del bello, dai, ora se no la butto troppo male. C'era Sidney Poitier nel ruolo di un sassofonista jazz espatriato in questo film, poi c'era Paul Newman come trombonista e poi c'era pure Louis Armstrong, così per gradire. Oltre all'immancabile tema della love story con le turiste americane in vacanza, che sta sempre bene, un po' così come il pepe, il film vorrebbe anche in qualche modo parlare del razzismo negli Stati Uniti e di quanto invece a Parigi, appunto, sia tutto un altro vivere. Che tenere, gli americani magari ci credono pure, ecco. Però questa è Paris Blues e questi sono Duke Ellington insieme a Louis Armstrong, e quindi chi se ne frega di cosa pensavano gli americani, va già bene, insomma, che sia stato scritto sto pezzo, il resto che ci frega. Thank you. meraviglia sto pezzo. Beh, veniamo a insomma cose meno piacevoli. Un altro locale, Maxim, famosissimo Maxim, uno dei luoghi appunto più ricchi, più famosi di Parigi. Durante la Seconda Guerra Mondiale Maxim era il più celebre ristorante di Parigi. Beh, in realtà Maxim nasce anch'esso durante la Belle Époque, però concentriamoci sui mostri più vicini. Appunto, il più celebre ristorante di Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale veniva frequentato da ufficiali del Terzo Reich e celebrità collaborazioniste, insomma, perché ricordiamoci che la Francia occupata dai nazisti, ecco, cioè, abbiamo ormai, possiamo dirlo con una estrema tranquillità, che insomma furono parecchi i collaborazionisti in Francia. Hermann Göring, Otto Abetz, Ernst Junker non mancavano mai di cenare da Maxim quando si trovavano a Parigi. Essendo frequentato da alti ufficiali tedeschi, ovviamente Maxim godette di un particolare trattamento di favore durante l'occupazione nazista, e quindi i suoi dipendenti non furono deportati in Germania, cosa sorte che ovviamente non toccò al resto della popolazione, e non c'erano razionamenti di cibo. La resistenza francese chiuse il locale durante la liberazione, ma riaprì poi nel settembre del 1946. La Francia, d'altronde, lo vedremo dopo, è un'altra delle nazioni, insieme anche all'Italia peraltro e ad altre, che non hanno proprio fatto perfettamente i conti col passato, ecco. Maxim era ancora molto popolare presso le celebrità internazionali negli anni 50 e veniva frequentato da Aristotele Onassis, Maria Callas, il Duca di Windsor, la moglie Wallis Simpson, Porfirio Rubirosa, insomma, ma anche da celebrità del cinema come Hitchcock, Grace Kelly, beh, insomma, la creme della creme. Quando il ristorante venne rinnovato alla fine del decennio, alcuni operai scoprirono una sorta di tesoro costituito da monete e gioielli caduti negli anni dalle tasche dei clienti e finiti nelle intercapedini dei divanetti imbottiti del locale. Ora, ve l'ho voluta dire questa cosa perché questo è sempre stato uno dei miei sogni nascosti, cioè secondo me nei nostri luoghi, nei posti autogestiti che frequentiamo, cioè io sempre mi immagino di trovare chissà che nei divani pulciosi a cui siamo abituati. Poi in realtà non si trova mai niente, ma perché essenzialmente il problema è a monte, il problema è che non frequentiamo i ricchi, e quindi che volete trovare? Cioè al massimo una forcina per capelli, un mozzicone di sigaretta, altre cose tristi, un biglietto dell'autobus, vabbè, niente, tristezza. Comunque questo era Maxim, ma ve l'ho raccontato perché c'è un brano di Serge Gainsbourg che si chiama per l'appunto esattamente Maxim. Baiser la main d'une femme du monde, et m'écorcher les lèvres à ses diamants, et puis dans la Jaguar brûler son léopard avec une cigarette anglaise. Et s'envoyer des drailles aux Gordon et des Pimms, number one, avant que de filer chez Maxim's. Grand seigneur, dix sacs aux chasseurs. Enfin posé, ma pelle échauffée, ma gamelle. E beh, ci sarebbe potuta entrare ovviamente Edith Piaf in questa scaletta, ma ve l'ho voluta risparmiare perché, insomma, cerco per quanto posso di essere un po' meno banale, ecco, di così. Però in qualche modo ci, come dire, ce la infiliamo lo stesso, perché il prossimo brano in scaletta è Django Reinhardt, Belleville si intitola. Django Reinhardt ha dedicato molte canzoni a Parigi e ai suoi quartieri, in particolare Montmartre per esempio, ma qui invece ci concentriamo su Belleville, un quartiere nel 20° arrondissement. E sugli scalini del portone situato al 72 di Rue Belleville nacque proprio Edith Piaf. Ma questo quartiere, al di là appunto di aver dato i natali a Edith Piaf, in realtà è un quartiere vivissimo e a tutt'oggi probabilmente è uno di quelli che sta ancora resistendo alla gentrificazione, nonostante, insomma, bussi a tutte le porte. Però è un quartiere, beh, si direbbe cosmopolita, cioè lo trovereste in una guida turistica, probabilmente il termine cosmopolita, ma sarebbe, boh, quantomeno riduttivo. Cioè è proprio un mix, un garbuglio totale di culture e di popolazioni. È un quartiere molto popolare, storicamente popolare. Tra l'altro vi sono ambientati molti dei romanzi di Daniel Pennac, per esempio il ciclo di Molsen. Pennac, che vive nel quartiere, appunto, vive davvero a Belleville, non per niente ci ambienta i propri romanzi. E Belleville sorge sul colle più alto di Parigi, la domina in qualche maniera, nonostante, come abbiamo detto prima, sia, come abbiamo detto per Montmartre, sia un insomma, è completamente diversa dalle strade che in cui cammini 100 metri prima, insomma. Anche questo è uno di quei luoghi dove di punto in bianco ti ritrovi in uno scenario completamente diverso. E convivono, come dicevamo, tantissime popolazioni una sull'altra: cinesi, libanesi, russi, vietnamiti e ovviamente molti tipi di arabi. E soprattutto una cosa che ti resta in testa tantissimo, può sembrare un cliché, ma è verissima, sono i sapori e gli odori che senti veramente da ogni angolo quando giri a Belleville. Quindi anche, direi, forse proprio simbolicamente, Belleville viene raccontata da Django Reinhardt, che insomma, in quanto a mescolamenti e garbugli, penso che avesse parecchio da dire. Quindi Belleville, appunto, di Django Reinhardt. Corporal Lonnie Wilfong, arranger for the ATC band, Sergeant Jack Platt and the band, and Django Reinhardt all collaborate on Django's Belleville. Thank you. versione un po' così, un po' appunto molto molto scoppiettante. Beh, non potevo esimermi dal parlare degli Champs-Élysées, anche se boh, sì, beh, probabilmente traspare dalle mie parole, amo molto Parigi, ma ci sono dei luoghi che veramente detesto. Uno di questi è la zona intorno alle Champs-Élysées, altri sono fra l'altro intorno invece alla Torre Eiffel, così, così amata da molti, ma invece io boh, non la sopporto. Ma vabbè, comunque concentriamoci sugli Champs-Élysées, uno dei più larghi e maestosi viali di Parigi. Beh, che lo dica a fare, lo sapete, con i suoi cinema, caffè, negozi di lusso, una delle strade più famose del mondo e una di quelle che fra l'altro delimitano il cosiddetto Triangolo d'Oro di Parigi, e già insomma si capisce. Insomma, la Parigi odiosa, quella fanfarona insopportabile. Ma gli Champs-Élysées in realtà all'origine erano dei campi, come molti luoghi di Parigi, l'abbiamo visto all'interno di questa scaletta. Fino al 1616, quando Maria de' Medici, colpa nostra sempre, decide di farvi costruire un lungo percorso alberato. Comunque non aveva proprio devastato tutto, cioè aveva fatto un vialetto, ecco. Tale percorso si estendeva dal Louvre fino alle Tuileries, e nel 1724 invece il viale viene esteso fino al Place de l'Étoile. Però vabbè, questo era parecchio tempo fa. Poi verso la fine del XVIII secolo, questo viale era diventato una via alla moda, dove la regina Maria Antonietta passeggiava con le sue amiche, finché poteva passeggiare, bellina, e prendeva lezioni di musica al Grand Hotel de Crillon. Gli Champs-Élysées divennero proprietà della città nel 1828, ed è qui che iniziano, come abbiamo un po' accennato nel corso di questa scaletta, le speculazioni edilizie di Stato in Francia. Quindi si acquistano moltissimi luoghi della città per poi rivenderli ai privati, e ai negozianti di lusso, alle fabbriche, ai grandi magazzini, a quelli che potevano rivalutarli in un'ottica ovviamente capitalista. E così succede anche negli Champs-Élysées, divengono proprietà della città nel 1828, e a carico dello Stato vengono aggiunti percorsi pedonali, fontane, lampade a gas, gli viene ridato un assetto in qualche modo appunto così più decoroso, come almeno secondo il loro gusto, e poi viene lottizzato e venduto a tranci ai vari negozianti di lusso, che poi sono ancora adesso quelli che possiedono di fatto questa zona di Parigi, e peraltro ne hanno il controllo non totale, ma insomma largo, perché decidono quali negozi possono aprire, quali no, insomma hanno di fatto agiscono come delle lobby molto influenti e molto potenti. Haussmann ne ha fatto non a caso il simbolo del potere e della vittoria, dell'impero, del colonialismo, della guerra, di tutto ciò che insomma è odioso. Ma gli Champs-Élysées, insomma, ne hanno parlato un po' tanti, anche in musica sono stati, insomma, gli Champs-Élysées è un brano rifatto da chiunque. Io ho in testa tantissimo i NoFX, ma non vi faccio sentire i NoFX, ma bensì gli Addicts. Così, adesso se vi eravate entusiasmati e presi bene, io adesso vi seguo le gambe con un episodio appunto di quelli terribili che hanno caratterizzato la Francia di sempre, ovvero il 17 ottobre del 1961, il massacro degli algerini. Così poi bello perché appunto dichiaro che mi piace Parigi, amo questa città, ma pensa se mi stava sul cazzo, insomma. Vabbè, andava fatto d'altra parte. Ho tratto questo testo che ora vi leggo da un blog che si chiama La Bottega del Barbieri, e questo testo è stato scritto da Karim Metref. Ma perché? Perché non è che in realtà, ovviamente ormai di questo episodio e della guerra in Algeria e della battaglia di indipendenza algerina contro la colonia francese, appunto in Italia, non è che non si trovi niente, ovviamente, insomma, è il 2020, accidenti. Però in realtà no, non si trova moltissimo, soprattutto nella civilissima internet e soprattutto nella civilissima Wikipedia Italia, di cui non finirò mai di dire, ma cioè non smetterò mai di parlar male. Quindi insomma un po' bisogna cercare, e uno dei racconti che mi sono sembrati più, come dire, tra quelli almeno non lunghissimi, perché ovviamente non potevo stare altre tre ore, però tra quegli articoli o piccoli racconti che mi sono sembrati più interessanti c'è proprio questo di Karim Metref. I lavoratori algerini in Francia erano centinaia di migliaia, portati a navi piene dopo la guerra per ricostruire il paese. Erano manodopera pura, dovevano lavorare nei posti più duri, più sporchi o più pericolosi, e poi andare a nascondersi nei centri d'accoglienza per lavoratori stranieri. La legislazione dell'epoca non prevedeva la presenza di mogli e figli di lavoratori, e chi decise di farli venire dovette uscire dai centri di accoglienza e andare a costruirsi una baracca di lamiere e di cartoni in qualche periferia di Parigi. E tra questi lavoratori che nascono già negli anni 30 i primi movimenti indipendentisti. Per lo più sono operai politicizzati che escono dal PC francese, perché si accorgono che l'internazionalismo dei compagni francesi spesso si ferma in Europa. Nel 1957, mentre Massou smantellava la rete di lotta armata cittadina di Algeri, gli attivisti del fronte organizzavano la Federazione di Francia, un vero e proprio polmone per l'organizzazione. Le reti di sostegno raccolgono montagne di soldi presso i lavoratori, assicurano all'esercito di liberazione armamenti e medicine, e ai vertici dell'FLN spostamenti e soggiorni all'estero. Creano contatti con organizzazioni internazionali e con i paesi del blocco socialista. La Federazione di Francia è in contatto con la crema della cultura francese e porta la sinistra francese poco a poco, prima quella extraparlamentare, poi anche alcuni pezzi grossi del Partito Comunista, a schierarsi dalla sua parte. Ma tutto ciò non basta, aveva bisogno di portare il conflitto in terra di Francia, per far vedere al popolo francese e al mondo su quale letto di violenza e di ipocrisia riposava la grandeur della Repubblica Francese. Lo scontro non tardò ad avere luogo, duro e crudele come sanno essere le guerre urbane. Terrorismo, assassini, bombe, repressione, paura, odio, caccia all'uomo, linciaggi. I servizi francesi non esitano a creare una finta organizzazione terroristica, la Main Rouge, per liquidare fisicamente i sostenitori francesi del fronte di liberazione. È in questo clima che è lanciato l'appello per la manifestazione del 17 ottobre 1961. Il prefetto di Parigi, Maurice Papon, decreta il coprifuoco etnico, vietato agli algerini di uscire di casa dalle 20 alle 5, giusto il tempo di andare a lavorare e tornare a casa. Sottolineo coprifuoco etnico perché era una misura appunto mirata soltanto agli algerini, giusto perché si capisca bene il clima. La vita già dura dei lavoratori magrebini in genere e algerini in particolare diventa un vero inferno, un carcere duro. Il fronte chiama gli algerini, uomini, donne e bambini, a uscire tutti quanti in massa dopo le 20:30 e di raggiungere le principali piazze e vie di Parigi. L'organizzazione è perfetta, nessun manifesto, nessun foglio distribuito, soltanto passaparola. Le consegne erano poche, semplici e precise: uscire di casa, in famiglia, ben vestiti, non portare in tasca o in borsa niente che possa essere considerata arma, un coltello, un cacciavite, qualsiasi cosa, violare collettivamente il coprifuoco e recarsi nelle piazze e boulevard principali della capitale per scandire slogan contro le discriminazioni e a favore dell'indipendenza. L'organizzazione era talmente efficace che quando il prefetto Maurice Papon fu avvertito del fatto era già il pomeriggio del 17 ottobre. Il telegramma inviato dalla prefettura a tutti i commissariati della capitale arriva alle 16:30. Quando si mobilitano le forze dell'ordine, i primi manifestanti erano già sui mezzi di trasporto che li portavano dalle lontane periferie verso il centro città. Ma la repressione sarà selvaggia. Papon, dopo consultazione con la loro ministra degli interni, Roger Fay, dà carta bianca alle truppe per impedire l'arrivo dei manifestanti ai luoghi di raduno con qualsiasi mezzo. Decine di migliaia di persone vengono fermate, sequestrate dentro i mezzi di trasporto, rinchiuse nelle stazioni della metropolitana, negli stadi, ed è una vera mattanza. Pestaggi, spari a bruciapelo, centinaia di persone, vive o morte, vengono buttate nella Senna. Il bilancio è pesantissimo. Si parla di almeno 200 morti certi e migliaia di feriti. Una vera e propria guerra contro civili disarmati. Un massacro degni di quelli che la potenza coloniale era abituata a compiere lontano da casa nelle colonie. Ma questa volta il cittadino parigino, anche se fa finta di non aver visto, non poteva più veramente ignorare la realtà. I cadaveri che galleggiavano sulla Senna a decine parlavano da soli. E ancora oggi la Francia non ha riconosciuto il massacro del 17 ottobre del 1961. Questo è un articolo un po' vecchio, devo dire, poi lo vedremo. Ad oggi è stato riconosciuto, così come non riconosce nessuno dei crimini contro l'umanità commessi nelle colonie. Maurice Papon, diventato in seguito anche ministro, fu arrestato e processato nel 1998 per concorso in crimine contro l'umanità, per aver partecipato, in quanto segretario di prefettura, alla deportazione di migliaia di ebrei verso i campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma mentre veniva processato per un crimine in cui ha collaborato come semplice esecutore, le associazioni franco-algerine che rivendicano giustizia per le vittime della violenza coloniale non sono riuscite a introdurre tra i capi d'accusa i crimini che Papon aveva ordinato e diretto personalmente con l'avallo del ministro e di Charles de Gaulle, ovviamente. Il male è solo nazifascismo. I crimini coloniali non sono all'ordine del giorno nella giustizia francese e nemmeno in quella europea, e forse non lo saranno mai. Questo appunto un piccolo estratto da questo articolo di Karim Metref, che potete leggere integralmente su labottegadelbarbieri.org. E nel 2012, dicevamo, bontà sua, Hollande ha ammesso il massacro. A Pont Saint-Michel è comparsa una targa, a posto così, si è fatto. A posto, tutto risolto. Per raccontare di questo massacro ci sono diversi brani che appunto raccontano di questo fatto. Io ho scelto 17 ottobre di Medine, dall'album Table de Cuite del 2006. Medine è un rapper di origine algerine, di religione musulmana, sebbene io non abbia, insomma, chi segue Slick Chick lo sa, grande come dire simpatia per le religioni, mi è sembrato comunque importante e interessante ascoltare il racconto che ha da fare di questa giornata una persona che, se non c'era, quantomeno è un diretto figlio o nipote di chi se l'è vissuto questa terribile giornata. Quindi 17 ottobre, Medine, 2006 appunto il brano. Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale. C'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction. Tout un ramassis d'ordures. Quelques degrés au nord de l'équateur. Je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed. Gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu. Par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur. Emmène-moi au pays des employeurs. Loin de l'inactivité, peur algéroise. Loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée. Une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Acosta Marseille, port autonome. Cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire. Embarquement, quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Tes papiers, je suis français, mission l'agent. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon. La métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de Français arrêtent dans un point. Serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs. Couleur iceberg bleuté, bluffé par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville. Habitation précaire pour mon entrée en vie civile. Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre. Protester contre leurs lois discriminatoires. Investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés. Dans une prison sur pilotis, nous sommes enfermés. Pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs. Leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang. Les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches. S'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil. Sans penser aux tirailleurs et combattants soif. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la Seine. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Des cas des eaux pour les gens des humanes eaux. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la Seine. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne. Les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules. 132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoilé croissant. Devoir de mémoire grandissant, Djezaïr. À 20h45. Ouais, salut Medine, c'était Mélanie, Diams. Bah écoute, je t'appelais parce que je suis allé sur le forum du CSA, comme tu m'as dit, au sujet de ton album. Franchement, j'ai flippé. Franchement, c'est flippant comme certaines personnes peuvent être autant à côté de la plaque. Ils te prennent sérieusement pour un terroriste. On dirait que tu vas tout faire péter, tout ça. Bon, franchement, tu devrais leur faire un titre plutôt que de leur répondre individuellement parce que tu vas perdre du temps et comme ça, les prochains, ils seront avertis. Je sais ce que c'est, j'ai déjà reçu des mails assez bizarres, des gens qui pensent que j'ai des idées cheloues. Mais bon, je t'en transférerai quelques-uns, comme ça tu rigoleras un peu toi aussi. Bon, en tout cas, bon courage, vas-y, déchire tout et rappelle quand tu peux, ok? Ciao, à bientôt. Non ho capito perché ci ha infilato poi alla fine la telefonata con la sua amica. Ma vabbè, vabbè, così era, magari così, insomma, assaporavate un po' di parigino, di quello puro proprio. Beh, siamo alla fine di questa scaletta dedicata a Parigi e di Slick Chick, ma prima di andare a dormire, a parte che vi lascio con un brano musicale che vi distende un po' gli animi, vi prepara un po' al sonno, vi fa dormire un po' più felici, ma prima vi ricordo un paio di appuntamenti che si possono approfondire e leggere sulla punta.org, che come sapete, insomma, in questo anno non è che proprio ha pullulato di appuntamenti, ecco, ma ci sono, resistono, qualcosa c'è, e in particolare il prossimo fine settimana, zone gialle, verdi, arancione permettendo, da giovedì 17 dicembre a sabato 19 dicembre si festeggia nonostante tutto il Nataleone 2020, 3 giorni di storia, attualità, cultura e conflitto in San Frediano, quindi il compleanno dell'occupazione di Via del Leone in San Frediano a Firenze. Torna il Nataleone 2020, settimo Natale assieme in San Frediano, e quest'anno a causa Covid tutte le iniziative saranno visionabili online. Che triste, vero? È così, è andata così, ormai basta rammaricarsi, tanto ormai siamo abituati. La prima giornata, giovedì 17 dicembre alle ore 17, vedrà la discussione incontro dal titolo Dinamiche di gentrificazione e prospettive di resistenza, tenuta da Carlotta Cacciagli, collaboratrice della rivista Giacobini Italia, sociologa e ricercatrice. La seconda delle 3 giornate si inserisce all'interno di una 3 giorni di storia del rione dal titolo Firenze 1921-2001, scusate, 2021, storie nostre dai quartieri alle barricate. In particolare la storica Anna Pellegrino parlerà di classi laboriose e classi pericolose a Firenze nel primo Novecento. Il terzo e ultimo giorno continuiamo parlando di turistificazione e conflitto in San Frediano. In particolare verrà presentata la tesi di laurea magistrale La città è un campo di battaglia, turistificazione e forme di resistenza nel rione di San Frediano in Firenze, a cura dell'autore Francesco Talanti, laureato in geografia e processi territoriali presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna e attivista compagno dell'occupazione di Via del Leone. Per seguire le presentazioni e gli incontri, intervenire, partecipare, vabbè, verranno pubblicati i link per l'accesso diretto su questo evento qui alla punta e sulla pagina Facebook dell'occupazione di Via del Leone. I quartieri, che li vive non a chi specula, la San Frediano che resiste oggi come ieri. Questo è il appunto il testo sulla punta.org che ci invita a appunto il Nataleone di quest'anno, che nonostante tutto in qualche forma si fa. E poi c'è un altro pranzo, questo, sempre che ovviamente venga, Dio lo voglia, confermata la zona gialla a Firenze, ormai veramente ci appelliamo, penso, non lo so, agli gnomi, alle divinità nordiche, che venga Thor a liberarci, non lo so, ma se davvero saremo gialli, domenica 20 dicembre... al CSA Next Emerson in presenza ci sarà il secondo pranzo sociale a mezzogiorno e mezzo. Questa volta sarà anche una maniera per sostenere il progetto delle comunità zapatiste del Messico, con la presentazione del libro Sindrome di Peter Pan con l'autore Alessandro Meo Sante, il quale ricavato sarà dedicato al progetto di educazione autonoma zapatista. E se avete intenzione e volete venire a questo pranzo, appunto, di domenica 20 dicembre a mezzogiorno e mezzo al Next Emerson a Firenze Castello, dovete prenotarvi assolutamente entro giovedì 17, quindi siete proprio sul filo di rasoio. Specificate se siete onnivori, vegetariani o vegan e mi raccomando, non scordate assolutamente, ovviamente, la mascherina e sappiate anche che il menù è un meraviglioso menù messicano, completamente mais 100%. E sulla punta.org oppure sul sito csaexamerson.it trovate il numero di telefono al quale potete prenotarvi entro appunto domani, entro domenica 17. Troverete in quest'occasione anche il banchino di Scarceranda, l'agenda contro il carcere che ha il suo punto di distribuzione quest'anno al Next Emerson e al mercato di Piazza Tasso. Di Genuino Clandestino, ma le agende stanno finendo, sono rimaste poche copie, quindi se le volete dovete sbrigarvi assolutamente e potete trovarle appunto a questo pranzo di domenica 20 dicembre al Next Emerson. Con questo penso di avervi detto veramente tutto e vi lascio però nelle mani di Paolo Conte perché ci voleva un italiano a Parigi in qualche maniera. L'album è Paris Milonga del 1981, uno degli album più famosi fra l'altro di Paolo Conte, quello dove c'è anche Via con me, insomma, quindi disco importante. E tra i vari brani c'è anche questa didascalicissima Parigi. Con questo vi lascio, vi do la buonanotte, ci risentiamo mercoledì prossimo e rimanete in ascolto ovviamente di Radio Wombat, ci sarà un po' di bobina e domani riprendiamo con la programmazione. Ciao ciao! Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e Francia. Chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole. Luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente. Zarara, zarirararara. Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentati e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia.